Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, e sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa, tardi, penso a te, ti accompagno e penso a te, non sono stato divertente, penso a te. Sono al buio, penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.